America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, come già avrete ascoltato da questa mattina all'alba, quando abbiamo fatto i primi collegamenti diretti, oggi tutti noi abbiamo vissuto una giornata storica. Osama Bin Laden è ucciso, il presidente Barack Obama è intervenuto dalla Casa Bianca per dare l'annuncio in diretta. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Oggi posso dire al popolo americano e al mondo che gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare che ha ucciso Osama Bin Laden. L'annuncio è storico, ovviamente, non ho bisogno di dirlo, ma è un annuncio che a partire da oggi avrà ramificazioni di ogni genere sul piano politico, su quello economico, a livello mondiale. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Il presidente è apparso serio, determinato, ha ricordato che nella guerra contro Bin Laden l'America non ha mai combattuto contro l'Islam, ha rivelato che c'è stata una collaborazione del Pakistan, uno sviluppo questo molto importante per i rapporti tra Washington e Islamabad. I servizi pakistani, che sembrava coprissero Osama Bin Laden, e certamente lo coprivano, perché poi abbiamo scoperto che Osama Bin Laden non viveva braccato, nascosto in una grotta nelle montagne fra il Pakistan e l'Afghanistan. Viveva in una villa lussuosa a Abbottabad, un paese non troppo lontano da Islamabad, un paese molto popoloso, un paese anche abbastanza grande. I primi sospetti degli americani ci sono stati quando hanno cominciato a identificare in questo paese un movimento strano proprio attorno a questa villa, una villa che era protetta da pareti molto elevate, inusuali per la cittadina, e si sono insospettiti quando si sono resi conto che questa era l'unica casa in cui veniva bruciata direttamente la spazzatura, non veniva data per il normale prelievo dei camion della nettezza urbana. Perché vi do questi dettagli? Beh, per dire che questa operazione è un'operazione, come ci ha raccontato lo stesso presidente Barack Obama, che era in preparazione da molti mesi. After years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to Bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located Bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. Avete sentito di nuovo la voce di Barack Obama, il presidente apparso nella East Room della Casa Bianca. Devo dire, è stata una serata davvero molto particolare, perché abbiamo ricevuto un'email dalla Casa Bianca, noi giornalisti che spesso viaggiamo al seguito del presidente americano, che ci avvertiva, ci metteva in guardia, ci sarebbe stato un importante annuncio. Dopodiché le reti televisive si sono interrotte e hanno cominciato a dare notizia di questo annuncio, un annuncio importante per la sicurezza nazionale del paese. Non si sapeva che cosa avrebbe detto il presidente e che cosa questo annuncio potesse contenere. A un certo punto ha cominciato a diffondersi la notizia. La convocazione per questa dichiarazione stampa era legata alla morte di Osama Bin Laden. Beh, devo dire che da quel momento in avanti c'è stata una dimostrazione di entusiasmo in tutti gli Stati Uniti d'America, soprattutto all'inizio alla Casa Bianca. Hanno cominciato ad arrivare giovani, gli studenti di Georgetown University, che è poco vicina, davanti ai cancelli, davanti al numero 1400 Pennsylvania Avenue. Gli agenti segreti, devo dire, erano anche un po' preoccupati per questa folla che si andava assembrando, ma era una folla pacifica, e si avvolgevano questi giovani con le bandiere americane, cantavano l'inno nazionale. Poi la gente ha cominciato a scendere per strada a New York, Times Square, a Ground Zero, naturalmente, a rendere omaggio alle vittime. Perché entro in questo dettaglio della folla? Beh, perché abbiamo visto ieri notte l'America che ha rialzato il capo. Questa è un'America ferita, è un'America ferita dal punto di vista economico e dal punto di vista morale. C'è un indebitamento enorme, l'occupazione non cresce, la Cina avanza, il sorpasso avverrà fra poco. Insomma, si è detto che l'America è in declino, e proprio nel momento più buio della storia americana, in questo momento così particolare, ecco questa vittoria che consente a Washington di rimettersi in carreggiata. Ecco, avete sentito le registrazioni della folla per strada, così urla di entusiasmo, e queste urla di entusiasmo si sono trasferite poi sui mercati, perché la notizia della morte di Osama Bin Laden ha già avuto un impatto a partire dai mercati asiatici, poi su quelli europei. Il dollaro si è rafforzato subito contro l'euro, il petrolio ha perso l'1,2%, in calo l'oro naturalmente, l'argento addirittura dell'8,41%. Insomma, nella notte di ieri, nel giro di pochi minuti, è cambiata un'equazione geopolitica e un'equazione economica. Si dice che spesso questi cambiamenti epocali avvengano improvvisamente. Ebbene, questa è la controprova. Questo cambiamento è stato improvviso. Si attende fra poco l'apertura dei mercati americani, succederà fra un'oretta, si anticipa un forte rally in borsa. Ecco, detto questo, possiamo immaginare che da una parte ci sia il recupero del dividendo per la pace perduto dopo l'attacco alle due torri. Il problema è che oggi la situazione per gli Stati Uniti d'America è molto diversa rispetto a quello che era quando ci fu la fine della Guerra Fredda, quando ci fu un altro dividendo per la pace, quando si voltò un'altra pagina di storia. Oggi gli Stati Uniti hanno un debito esorbitante, hanno un fabbisogno di 4.000 miliardi di dollari al giorno, hanno un disavanzo pubblico senza precedenti, l'occupazione resta molto difficile. Questi sono dei problemi che sono diventati ormai strutturali e che temo poco abbiano a che fare con l'uccisione di Osama Bin Laden. L'unica speranza resta quella psicologica, perché in effetti dalla psicologia positiva l'economia può trarre straordinari benefici. Killing Bin Laden is the end of the war on terror. We can just sort of announce that right now. Without him, Al-Qaeda, there's no one who can replace him in Al-Qaeda. Questa era la voce di Peter Bergen, l'ultimo giornalista a intervistare Osama Bin Laden, un grande esperto di Al Qaeda. Secondo lui, il fatto che il gruppo terroristico abbia perso la sua testa, il suo simbolo, significherà che non sarà mai più quello di un tempo. Di fatto, secondo lui, oggi Al Qaeda è stata sconfitta. Possibile, però la struttura ormai si era moltiplicata. Sappiamo che si sono creati molti centri diversi, delle cellule un po' dappertutto nel mondo. Bisognerà vedere se, ora che c'è stato questo taglionetto con la testa che finora l'ha guidata e gli ha dato questa forza per portare avanti questa lotta terroristica a livello internazionale, questa macchina continuerà a funzionare. L'importante però è non abbassare la guardia, perché nel momento in cui ci si sente più sicuri che qualche dramma può accadere improvvisamente. Insomma, come vi dicevo, dal Medio Oriente al subcontinente indiano, all'Afghanistan, alla guerra strisciante contro il terrorismo, l'equazione politica è cambiata. Non solo, abbiamo visto che i mercati sono in rally e il presidente ha chiamato per celebrare questa vittoria, attribuendo anche il merito generosamente all'azione del suo predecessore George W. Bush, ha chiamato, vi dicevo, Bill Clinton e ha chiamato lo stesso George W. Bush in uno spirito di unità e ha detto nel discorso: ricordiamoci che possiamo raggiungere questi successi non solo per la nostra ricchezza e per il nostro potere, ma per quello che siamo, una nazione con Dio indivisibile, con libertà e giustizia per tutti. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you, may God bless you, and may God bless the United States of America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Una giornata molto particolare, dunque vorrei dedicarla, la canzone di oggi, ai caduti americani che hanno reso possibile in tutti questi anni la cattura di Osama Bin Laden. Sono migliaia di soldati, il presidente Barack Obama li ha ricordati nel suo discorso, di Leanne Rimes, una tradizionale canzone commemorativa americana, Amazing Grace. Blind, but now I see.